Sono le 7 spaccate, come le mie Converse, tra l'altro. Una buona giornata dalla voce dell'Ariele. Eccoci pronti per l'ennesima delirante diretta denominata Pane, Burro e Rock and Roll. Questa è la colazione che si serve dai microfoni di Rock FM. Tenetevi forte perché la puntata di quest'oggi è la 117. Ai ai ai ai ai. Non diciamolo a Freak però, eh. Lui è un po' scaramantico sul 17, si picca sempre un po'. Non diglielo, Spadino. Pane, burro e rock and roll. Teniamocelo come segreto io e te. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Restate con noi, ne sentirete delle belle, ve lo posso garantire. It may be good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Oh, gira. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Quella di quest'oggi è una scaletta decisamente ricca. Posso solo dirvi che il nostro stagista impagabile e impagato Isaac Rizzi si è presentato con la sua 6 corde. La mia è abbandonata negli studi ormai da mesi e quindi c'è puzza di canzone dei Beatles in italiano. Io sento puzza di Beatles in italiano, vi dico solo questo. È una cattiveria dirlo a voi della prima ora perché il tutto avverrà nella seconda, però intanto vi avviso, così magari vi organizzate. In ogni caso il primo saluto, sapete a chi lo faccio invece? A un amico che mi scrive via mail. L'ascolto frazionato non è rock, ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll alla sera invece è rockissimo. Quindi faccio il saluto a lui, un amico di Firenze, Francesco, gruppo d'ascolto Maledetta Tramvia di Firenze, che ascolta Pane, Burro e Rock and Roll non adesso, non in diretta alle 7, ascolta di sera. Però l'oscurità c'è sempre, quindi potrebbe essere carino, no? Lui dice, io faccio finta di sera di essermi appena svegliato, mi faccio la doccia ed esco in cerca di benzina. Ciao Francesco, buona serata a te e invece buona mattina a chi ci sta ascoltando nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Vi state chiedendo come fa Francesco ad ascoltarci la sera, ma è semplice. O si scarica il podcast oppure ci ascolta su RadioRockFM.com in streaming. Quindi anche voi che volete sentirvi Beatles in italiano nella seconda ora di quest'oggi e non ce la fate perché siete a scuola, siete al lavoro o avete altri mazzi da fare, ve lo potete ascoltare con calma nel corso del pomeriggio. Quest'oggi, per iniziare al meglio un nuovo giovedì mattina, devo leggere per scoprire che è giovedì, si inizia alla stragrande. Tenetevi forte. Si inizia cattivi. Si inizia ringhiando. Iggy Pop and the Stooges. Solo qui a Rock FM. No fun, my baby. No fun. No fun, my baby. No fun. Another day, amico, com'è svegliarsi dal letto con Iggy Pop che ti grida Calano! Ottimo inizio, Spadino, complimenti. No Fun, Iggy Pop and the Stooges. Un inizio che ci sta, eh? Calza a pennello con noi di Pane, Burro e Rock and Roll. Noi siamo molto così, no? Chitarrina, yeah! Belli scazzati, yeah! Iggy Pop che se la urla a muzzo come vuole lui. Ottimo! Ottimo inizio! Qui siamo ancora nell'oscurità milanese, con un lampione crepuscolare che veglia su di noi, un bel venticello fresco fresco, un po' di pioggerellina, questo tanto per buttarla sul meteo a inizio trasmissione. Complimenti per come l'hai tagliata, Spadino, mi è piaciuta molto. 7-9 minuti primi, siamo sempre in attesa dell'arrivo del nostro Roberto Friccantoni, ormai un uomo che è diventato un fumetto. Le ha fatte tutte, Frick, è incredibile. Ogni giorno ne scopriamo una diversa. Io vorrei ricordarvi le nostre coordinate per costruire insieme questo programma. È ovvio, è ufficiale, si capisce lontano un miglio che né io, né Spadino, né Frick, né Isacco siamo in grado di gestire queste due ore da soli. Abbiamo bisogno del vostro prezioso aiuto, non siate timidini e partecipate via SMS al 335-100-7777, questo il numero di SMS. Casella di posta elettronica invece Ariel, @radiorockfm.com. Allora, io intravedo dalla finestra che mi fa vedere uno squarcio di via Vittorio Pisani. Vabbè, l'omino che fa jogging ormai ce lo siamo dimenticati, cioè non c'è più, è ufficiale. Però io, Spadino, vedo un tipo che se la dorme. C'è troppo un clochard dall'altra parte della strada. Di solito erano qua sotto, invece di là. Beh, potremmo affezionarci a lui a questo punto, no? Abbiamo bisogno di affetto dalle frequenze di Rock FM, era ufficiale. Di qualsiasi cosa vediamo, è un po' come se diventasse nostro. Andiamo di Kiss, via! Oh! Ma senti che musica che vi spariamo, ragazzi. Questa è Heart Like Woman. Quante sorprese per voi quest'oggi. Quante sorprese, mannaggia. Yeah! If never I met you, I never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. Child of non serviranno 20 tazze di caffè nero bollente per svegliarvi in questo giovedì mattina, basterà un buongiorno di Roberto Fricantoni. Proviamoci intanto, magari serve. Ma sì, dai, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno. Un entusiasmante, ecco. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, alle radioascoltatrici. È bello sentirla, bella pimpante, bello pimpante, pronto per l'almanacco dei... Scusi. Si svegli, perbacco, si svegli. Perbacco. Iniziamo. Ho avuto solo una defiance. Con una brutta notizia quest'oggi. Oh, era il 25 ottobre del 1938 quando l'arcivescovo di Dubuque, Iowa, il signor Francis J. L. Beckham, non aveva nient'altro di meglio da fare se non denunciare lo swing, musica degenerata atta a indebolire la fibra morale della gioventù e che porta a un patto col diavolo. Ah, straordinario. No, bisognerebbe inventarle se non ci fossero queste definizioni che ci danno linfa, credibilità lo e swing. Ci pongono davvero lo swing come nel il 38. Rock, come il blues. Poi hanno fatto d'ogni erba un fascio e noi siamo sempre in trincea all'opposizione, siamo gli eroi. Viva la musica del diavolo e proseguiamo a questo proposito con una bella notizia datata 1964. Il piccolo Frick aveva 10 anni quando... quando i Rolling Stones andarono all'Ed Sullivan Show per la prima volta. Al termine di questo importantissimo spettacolo statunitense, il conduttore, appunto Ed Sullivan, dichiarò, annunciò che non li avrebbe mai più invitati. Ottimo. Ecco, e quando parliamo di Rolling Stones io penso sempre alla loro età. Sa che Billy Wyman, che se n'è andato dal gruppo pochi anni fa, ha 71 anni. Sì, l'abbiamo festeggiato ieri. Infatti, Mick Jagger è lì, insomma, lei pensa ai nipoti che dicono, lei pensa a una situazione del genere, i nipoti che dicono, andiamo a vedere i nonni sul palcoscenico del Maracanà di Rio de Janeiro. Andiamo a vedere i nonni allo stadio del Maracanà nella loro tournée brasiliana, esatto. Potrebbe essere, c'ha poco da fare lo spiritoso. Comunque, passiamo a un'ultima notizia di quest'oggi, il 25 ottobre purtroppo moriva nel 2004 John Peel, giornalista e conduttore radiofonico britannico, lavorò in BBC fino alla sua morte. Un collega, se possiamo usare. E fu ricordato da tantissimi artisti che gli tributarono il loro successo, per ricordarne alcuni, T-Rex, Bowie, Faces, i Pistols, Uxie and the Banshees, di Pink Floyd, Clash, insomma John Peel li programmò un po' tutti a inizio carriera, The Flapper, Joy Division, i Cure, gli Smith, i White Stripes, per arrivare anche ai più moderni Blur, Cure, New Order e Oasis. Insomma, volevamo ricordare anche noi John Peel e il suo programma, il John Peel Session, in cui ospitava una band per esibire in esclusiva quattro canzoni del loro repertorio. Molti di questi mini concerti divennero poi anche album. Un saluto a John Peel! Un saluto a John Peel, un uomo che aveva un buon orecchio e anche una discreta dialettica, a quanto pare. Pensi che purtroppo morì di infarto mentre si trovava in vacanza lavorativa in Perù. Ah. La vacanza lavorativa, ecco, questa è una tiratina d'orecchie, una tiratina d'orecchie alla segreteria. Che segreteria? Tiratina d'orecchie alla redazione. Cosa c'entra? Perché o è vacanza o è lavorativa. Va bene, ci pigliamo un bel caffè. O dai, si lavora o si è in vacanza. Si lavora e si fatica per il pane. Per la musica! Per la diga, per il pane e per la diga. Le dighe sono fondamentali nel mondo. Riders on the storm, into this house we're born, into this this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Oggi ci diamo giù con la musica, eh? Grande Spadino. Riders on the Storm, Doors, le porte della percezione. 7:22 minuti primi. Ormai lo avete capito, siamo ragazzi disadattati. E d'altra parte, forse per questo che ci hanno preso a lavorare a Rock FM. Ragazzi disadattati che hanno bisogno di piccole grandi certezze, hanno bisogno di appigliarsi a qualcosa, a qualcuno. Noi ci appigliamo a qualcosa a quest'ora della mattinata, perché a qualcuno è impossibile. C'è un SMS drammatico. Allora, Angelo da Varazze non ha nient'altro di meglio da fare se non scriverci questo. Padino, la vedo male, eh? Oggi la vedo veramente male. Ciao Ariel, già ti sei perso l'omino che fa jogging, che si chiama omino che corre, ve lo ricordo, sennò un altro radioascoltatore si arrabbia. Cosa fa quello lì? Va a svegliare il clochard? Ma cosa fa? Oh, lasciatelo stare, eh? C'è un tipo che sta andando... Vabbè. Dalla prossima settimana, col cambio dell'ora, ti perderai anche il lampione crepuscolare, che probabilmente alle 7 già sarà spento. Ma cosa stai dicendo? Angelo da Varazze, ma cosa stai dicendo? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che cambia l'ora e spengono il lampione? E io come faccio a trasmettere senza lampione crepuscolare? No, non si... Ma cosa vuol dire? Ma vuol dire che dormo di più o vuol dire che dormo di meno? No, lampione crepuscolare, non ci abbandonare, ti prego! Io non ce la posso fare senza di te, sono un piccolo ragazzo disadattato! Resta con noi! Just because we get around, talking about my generation, things they do look awful, talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we can get around. Già dovuto subire il trauma di separazione dall'omino che fa jogging, ok? A me non me ne frega niente se cambia l'ora. Quel lampione deve restare acceso, se no io non vengo a lavorare. Non me ne frega niente che c'è il clochard nuovo, non mi ci affeziono, e anche se io lo voglio lo stesso lampione. Vi paghiamo fiori di soldi, redazioni, vi inventate qualcosa per tenerlo acceso, ok? Io non ci vengo a lavorare senza lampione crepuscolare, io non mi alzo la mattina. Come dite? Potremmo venire a lavorare un'ora prima, al posto di Chuck Burr? Vabbè, dai, al massimo lo trasmettiamo senza lampione. Ciao! Ciao! Oh, che spesa hai fatto! E tu? Sei già qui? Prendo solo una merendina e vado! Questi ragazzi viverebbero solo di merendine. E che male c'è? Basta scegliere quelle giuste. Come questa. Pane, burro e rock and roll. Ha tutta la semplicità di un pane fatto con grano, cereali e la bontà naturale della marmellata di frutta. E poi è anche conveniente. Pane, burro e rock and roll. Nutre bene con la sua semplicità.